24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, eccoci qui cari ascoltatori, le 7:20 minuti, ben ritrovati. Parte una nuova settimana di 24 mattino, il nostro Peter Biscapelli in regia, sempre pronto. Siamo anche su Facebook, ci trovate così, 24 mattino, ci trovate anche su Twitter, @24mattino, ci sono anch'io lì, @Talino Milan. Ebbene sì, e allora oggi avremo ospite l'onorevole Renato Brunetta, l'ex ministro Brunetta, alle 8:20, e poi parleremo di questa vicenda di cronaca che mi ha molto colpito. A Trapani la scorsa settimana una persona che ha fatto un incidente in macchina, ha ucciso 4 persone di fatto, ha sterminato una famiglia, era con il tasso alcolico sopra il consentito, non farà un giorno di carcere. Questa alle 8:30, ne parleremo più avanti. Allora andiamo a vedere che cosa ci riservano i giornali in edicola oggi. Questo lunedì 18 giugno, avete pagato l'IMU? C'è tempo ancora, 12 ore più o meno, poi chiudono le banche e quindi anche meno. E, allora, il titolo del Sole 24 Ore di apertura è proprio questo: l'IMU porta i primi 10 miliardi. E questo è il titolo di apertura dell'edizione del lunedì. La prima rata dell'IMU scade oggi, Vi siete svegliati con questo spirito soave, cari italiani. E poi, vabbè, tutti i quotidiani aprono sulle elezioni in Grecia. Il voto della Grecia fa respirare l'Europa, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, Grecia, resteremo nell'euro. La Stampa, Grecia, vince il partito pro-euro. Il Messaggero, la Grecia sceglie l'Europa. Il Giornale, l'euro è salvo per ora. L'Unità, la paura spinge la Grecia a destra. Il Secolo XIX, i greci hanno scelto l'euro. Questi titoli di apertura. Il Giorno, invece, il quotidiano nazionale, io ho l'edizione del Nord del Giorno, mette una foto di Antonis Samaras, il nuovo leader, insomma, che ha vinto le elezioni. Eureka, questo è il titolo di apertura, che già, insomma, occuparsi delle elezioni in Grecia da parte di tutto il mondo, con anche Obama che ha commentato dopo pochi minuti, vuol dire che se non siamo nel baratro ci siamo già quasi vicini. Un tempo, magari neanche poco tempo fa, le elezioni in Grecia finivano in un trafiletto a pagina 15, ora tutto il mondo è in attesa di sapere, era in attesa di sapere come andavano le elezioni in Grecia. Ma vogliamo partire da qualcos'altro, poi vedremo le elezioni in Grecia. Il tema della revisione della spesa, che c'è sempre, la spending review. Oggi ci sono molti articoli perché Mario Monti, che è partito per il Messico, è arrivato anzi in Messico per il G20, ha fatto allo studio una serie di interventi per la riduzione della spesa. Oggi trovate sul Corriere della Sera, pagina 11, Enrico Marro, governo pronto al decreto sulla spending review, c'è un dossier sugli esuberi. Allora scrive Marro che il governo stringe sulla spending review, l'obiettivo è arrivare entro il Consiglio europeo del 28-29 con due provvedimenti approvati. Uno, la riforma del lavoro, e si pensa a un'altra fiducia. E un altro, l'obiettivo è anche dare un segnale concreto sulla spending review, questi 5 miliardi almeno da tagliare nei ministeri. Allora il decreto che dovrà assicurare risparmi per almeno 5 miliardi nella seconda parte del 2012, 8-9 miliardi nel 2013, prevede tra le altre cose allo studio questo. Io quando l'ho letto, cari ascoltatori, non ho potuto trattenere una risata. L'abolizione delle province. Mi viene veramente da sorridere, ve la dico come c'è scritta sul Corriere della Sera, o meglio, il trasferimento delle loro funzioni ai comuni e alle regioni, che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Una frase che si perpetua da generazione in generazione, padri che raccontano ai figli questa storia dell'abolizione delle province o la riduzione o il passaggio di consegne dalle province a qualcun altro. Ci sono nonni che hanno cresciuto i nipoti con questa storia e poi ci ritroviamo sempre così. Comunque pare che entro la fine dell'anno ci sia questo passaggio di consegne. Poi la soppressione dell'Agenzia del Territorio, che verrà assorbito dall'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia dei Monopoli, che finirà nell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico, che verrà suddivisa tra Ministero delle Politiche Agricole e di nuovo l'Agenzia delle Dogane. Insomma, questi alcuni dei provvedimenti allo studio. Ma uno dei provvedimenti invece che più farà discutere e più va approfondito è quello che riguarda i possibili esuberi nel campo della pubblica amministrazione. C'è appunto un dossier sugli esuberi. Secondo i sindacati, secondo fonti sindacali, ci sarebbero documenti tecnici del governo che quantificano in 276.000 i potenziali esuberi. I ministeri interessati non confermano, preferiscono parlare di ipotesi sul tavolo con numeri che ballano. Potrebbero essere 200.000 come 300.000. Insomma, la questione dei numeri che ballano, come vedete, non è solo sul tema degli esodati. Ma su questo il Sole 24 Ore, a pagina 9, con Gianni Trovati, racconta più nel dettaglio. Sugli statali over 60, il rischio esodo con indennità al 50%, l'ammortizzatore allo studio è calcolato sullo stipendio e non sulla retribuzione reale. Le parole chiave sono eccellenze, mobilità e 80% dello stipendio, le tre parole chiave nel pacchetto allo studio della cura Bondi sulla spending review. Non sono certo un inedito, ma l'idea appunto è quella, una misura analoga a quella prevista da uno dei primi interventi salva Grecia, che si è per ora persa nel silenzio delle amministrazioni. Si tratta, è bene ribadirlo, per ora di ipotesi all'interno di un pacchetto che prevede anche opzioni più leggere, come una riparametrazione del trattamento economico della dirigenza. Ma l'idea è anche appunto quello di il rischio esodo per gli statali sopra i 60 anni con un'indennità al 50%. Insomma, c'è allo studio qualcosa, un dossier per i dipendenti pubblici. Prima della pubblicità vi voglio raccontare, secondo me, l'articolo più interessante di oggi sui giornali. È un articolo di Paolo Di Stefano, lo trovate sul Corriere della Sera a pagina 24. È la storia di Rosanna Rizzi, studentessa a 73 anni. Rosanna e l'esame a 73 anni, quelli che non si arrendono, è la storia di questa signora che ha preso la licenza media. È la sua storia perché raccontata da quando lei, classe 1939, per via della guerra finì la quinta elementare solo nel 1951 ad Azzano Lombardo, ma poi non aveva più potuto continuare la scuola. Storia sembra da non crederci, ma una storia difficile, già abbandonata 2 anni in una cascina, venne cresciuta da una famiglia di contadini, appena compiuti 18 anni ha voluto sposarsi con un uomo molto più grande che lavorava da operaio all'Italcementi, miseria lui, miseria lei, ma nella povertà stavano bene insieme. Poi la voglia di finire le elementari e infine la maestra che mi chiama e mi dice: «Tua mamma deve lavorare tutto il giorno e tu devi aiutare in casa». Così mi è rimasto per tanti anni in cuore quel desiderio e l'anno scorso ho detto: adesso basta, inizio le medie, lezioni serali con tanti extracomunitari tutti i giorni dalle 5 alle 7, poi i compiti, gli esami che non sono una passeggiata, per scienze ho studiato l'ambiente e l'inquinamento, tutta roba che non sapevo, per italiano la grammatica, gli articoli, i pronomi, quelle cose lì. All'esame dovevo commentare un brano di Primo Levi, mi è piaciuto tanto perché parlava della dignità della persona, mi ha ricordato mia madre. Poi l'inglese è stato difficile, ma forse l'anno prossimo mi iscrivo a un corso per impararlo meglio e forse anche il computer, non lo so, devo ancora decidere. Sta di fatto è la storia di Rosanna Rizzi, classe 1939, che ha deciso dopo tanti anni, dopo che non aveva potuto compiere quel piccolo tragitto degli studi fino alla scuola media, alla licenza media, ha deciso l'anno scorso di iscriversi e ha ottenuto la licenza di terza media. Trovate questa bella storia sul Corriere della Sera, Rosanna e l'esame a 73 anni, quelli che non s'arrendono. Ci fermiamo 5 minuti. 24 mattino. Eccoci qui allora alle 7:35 minuti, cari ascoltatori, se prendete qualsiasi giornale oggi in edicola troverete paginate sulle elezioni in Grecia, fino a qualche anno fa finivano in un trafiletto a pagina 25, ora invece tutto il mondo guardava con il fiato sospeso queste elezioni in Grecia, perché che erano state tra l'altro elezioni ripetute dopo che non si era riusciti a formare una coalizione di governo un paio di mesi fa. Se ci fossimo adesso davanti a una situazione con ancora partiti incerti, impossibilità, incertezza a formare un governo, è davvero, qualcuno poteva pensare a uno scenario come prima la Grecia uscire dall'euro e poi il tracollo. Cosa è successo? Ha vinto invece Nuova Democrazia, formazione di centrodestra, il primo partito, non ha conquistato la maggioranza assoluta, ma da oggi partiranno le trattative che paiono più possibili per formare un governo di coalizione anche con i socialisti del PASOK. Insomma, dovete informarvi sulla politica greca, dovete sapere le sigle, i partiti, chi sono, altrimenti siete un po' out nel leggere i giornali di oggi. Sta di fatto che in Grecia festeggiano gli europeisti, così titola per esempio a pagina 2 il Corriere della Sera. L'idea è che per il momento c'è un sospiro di sollievo, cioè l'euro è salvo, al momento l'euro è salvo, tanto che dopo che ci sono state queste elezioni con l'annuncio della vittoria anche in inglese, questo per dire che si stava parlando al mondo intero, Obama si è subito espresso dopo le elezioni in Grecia, insomma la tensione e l'attenzione era molto alta per quello che stava succedendo ad Atene. Subito dopo i leader europei in una conference call sulla Grecia hanno condiviso l'idea che ci potrebbero essere 2 anni in più per rispettare gli impegni dati ad Atene. Insomma, anche qui una sorta, anche la stessa Germania, no? Sempre additata come la patria del rigore, anche Berlino ha accettato la proroga di 2 anni. Anche se Angela Merkel ha fatto sapere gli impegni comunque non cambiano. Dunque una Grecia che per il momento si è salvata e si è trovato un governo filo euro, con un governo che dovrà essere formato, ma con le coalizioni che hanno vinto, i leader di Nuova Democrazia che dice non vogliamo uscire dall'euro, vogliamo rimanere nell'euro. Lo stesso Mario Monti ha detto, come ricorda Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, pagina 4, prima di volare in Messico al G20, un po' di generosità con Atene, ora più che mai è meritata, visti i risultati del voto, e dunque ci sarà, non c'è più l'ansia per il piano di rientro. Insomma, tutto semplice, tutto facile. Beh, vi invito tra gli scettici a leggere un'intervista che il Quotidiano Nazionale fa all'economista Paolo Savona, che da giorni predica attenzione, in realtà non è tutto questo ottimismo, non lo vedo molto. Una tregua dal voto ma l'euro a piedi d'argilla, questo è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 5 del Quotidiano Nazionale. Spero che ora i greci si dedichino agli aspetti seri. A cosa mi riferisco? L'accordo monetario europeo non può essere sanato con continue iniezioni di liquidità, equilibri di bilancio con il rientro dal debito pubblico. Ho 2 idee diverse, per esempio, dice Savona. La prima è che siccome il capitale si è diretto verso paesi che stanno bene, anche il lavoro si deve spostare nella stessa direzione, incentivando la Germania ad accettare, per esempio, un po' di immigrazione. La seconda, servono politiche compensative degli svantaggi derivanti dal fatto che per alcuni il rapporto di cambio è sottovalutato, per altri sopravvalutato, come l'Italia in coda. Non si può andare avanti con la Germania che ha un surplus di 160 miliardi e gli altri grandi paesi invece con un deficit dai 50 ai 60 miliardi. Savona poi ancora insiste sul piano B per uscire dall'euro. Dice da qualche giorno l'economista che tutti i paesi dovrebbero avere un piano B. E sostiene anche l'Italia. Secondo me tutti i paesi hanno un piano B. Se non l'avessero sarebbero scellerati. Non ne abbiamo parlato in pubblico, ma il piano c'è. Così l'economista Paolo Savona. Sta di fatto che staremo a vedere ora se in Grecia riusciranno a formare una coalizione di governo un po' solida dopo le ultime elezioni invece che erano fallite da questo punto di vista. Venendo invece alle cose italiane, le cose che trovate sui giornali sono il fatto che Monti appunto è volato in Messico, è arrivato in Messico per il G20. C'è una scadenza che è quella del Consiglio europeo del 28-29 giugno al quale Monti vuole arrivare con alcune cose approvate. Una su tutti è la riforma del mercato del lavoro. E allora, nonostante quella che il Corriere definisce un'alzata di scudi dei partiti, L'idea è fare questa tabella di marcia e quindi in 10 giorni approvarlo anche a colpi di fiducia. Fini dice ci sono i tempi, torna l'ipotesi di una fiducia. Insomma, su questo tema molto delicato l'idea è quella di cercare appunto un consenso, scrive il Corriere della Sera. Tra l'altro sul tema legato al mercato del lavoro e in questo caso il tema esodati interviene con un commento sul Corriere della Sera il senatore Pietro Ichino del Partito Democratico. Il commento lo trovate a pagina 10 e 11, i veri conti sugli esodati e la soluzione possibile. Questo è il titolo del pezzo di Pietro Ichino. L'ipotesi di Chino è questa: ci potrebbero essere altri 24.500 salvaguardati insieme ai già 65.000 salvaguardati, cioè esentati dall'applicazione delle nuove regole. Per tutti gli altri invece la strada qual è? Non è quella di salvaguardarli, ma per tutti gli altri la strada è quella degli incentivi all'assunzione. Cioè, dice Pietro Ichino, l'obiettivo è quello non di favorire le persone ad andare in pensione, ma semmai quello di cercare di tenere il più possibile le persone ancorate al mercato del lavoro, anche magari con degli incentivi, in modo che non lascino assolutamente il mercato del lavoro. È una proposta interessante che può fare discutere, la trovate a pagina 10 e 11 in taglio basso del Corriere della Sera, la firma appunto di Pietro Ichino. Dopodiché, cari ascoltatori, oggi è il 18 giugno, è lunedì, inizia la settimana e c'è l'IMU da pagare, almeno la prima rata. Diego Rovelli mi guarda e fa, evidentemente non ha l'IMU da pagare. E se no molti italiani, milioni di italiani devono oggi pagare l'IMU. Trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, sulle guide, su come si fa anche a pagare. Se avete ancora dubbi, se dovete chiarirli, proprio siete arrivati all'ultimo giorno per chiarirli, eccolo qui. Per esempio anche sull'online del sole24ore.com trovate tutti i modi per fare i calcoli giusti, visto che ormai non avete molto tempo, dovete farlo entro oggi. Dall'IMU sono attesi circa oggi 10 miliardi di euro. Cioè quando si chiuderà la giornata, se tutti avranno pagato l'IMU, secondo le stime della prima rata dell'acconto, attesi circa 10 miliardi di euro. A pagina 3 del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste, Gianni Trovati, questa sera l'operazione acconto sarà conclusa, nelle casse pubbliche entreranno appunto i primi 10 miliardi di euro, ma per capire quanto vale davvero la nuova imposta per Stato e Comuni bisognerà invece attendere ancora un po' di tempo. Tra gli sconti dettati dal Parlamento, quelli decisi dai sindaci che possono influenzare già la prima tranche, il gettito effettivo dell'IMU resta infatti appeso a diverse incognite. Sarà 21,8 miliardi, sarà 21,4 miliardi, chissà, intanto dovrebbero arrivare 10 miliardi nonostante le reazioni di una parte della politica. In primo piano la Lega, ieri si è trovata con il cos'era No IMU Day, è stato un trionfo secondo i giornali per Roberto Maroni, acclamato, si è rivisto anche il senatore Umberto Bossi, per la verità tutti i giornali parlano di un discorso un po' più malinconico, un po' più dimesso, qualcuno che l'ha anche contestato, e invece la Lega che sembra più la Lega di Maroni, tanto che quello che ha definito l'eretico, cioè Flavio Tosi, per la verità Bossi lo ha definito anche uno stronzo una volta, il sindaco leghista di Verona, lui stesso ha detto riguardo alla contestazione all'IMU è sbagliata, cioè bisogna pagare, non si manda la gente allo sbaraglio, perché poi se la gente non paga l'IMU, se le persone non pagano l'IMU sono degli evasori fiscali, e quindi poi invitare le persone a non pagare può creare un problema. In ogni caso la Lega in piazza contro l'IMU, trovate la cronaca sulla Stampa, Giovanni Cerruti a pagina 11, Maroni, il PDL deve prima lasciare Monti, poi parliamo, ma anche sul Corriere della Sera a pagina 14, il resoconto di Marco Cremonesi, Bossi ha detto bisognava impedire a Berlusconi di andare via. Questa È la verità. È stato troppo facile far cadere Berlusconi, bisognava impedirgli di andare via, con noi i conti erano a posto. Poi c'è stato il caos. Così Umberto Bossi, che poi ha dato la sua spiegazione sulla causa del debito. E questa, per il senatore Bossi, è stato fatto con l'emigrazione dal sud. Il traffico. Allora, per qualche notizia di cronaca trovata qua e là, La Stampa oggi, con Giacomo Galeazzi, suo vaticanista, racconta a pagina 21 una svolta che ci sarebbe stata per quel che riguarda la vicenda dei corvi, i corvi in Vaticano, quelli che hanno dato le lettere privatissime arrivate al pontefice e sono state anche oggetto di un libro, il libro di Gianluigi Nuzzi. Ebbene, racconta Giacomo Galeazzi, corvi, la svolta, il Papa conosce le loro identità. Lo trovate a pagina 21. Dall'interrogatorio dell'ex maggiordomo arrestato Paolo Gabriele pare che il cerchio si stia stringendo. Dagli interrogatori sono emersi mandanti e complici. L'ampia collaborazione dell'ex maggiordomo papale, detenuto da quasi un mese, ha portato gli inquirenti a individuare le responsabilità di laici e prelati. Sono così affiorati i nomi dei sospettati che la commissione cardinalizia ha riferito sabato al pontefice e che già in settimana potrebbero essere resi pubblici. Dunque potrebbe esserci davvero questa svolta, con anche i nomi dei cosiddetti corvi che avrebbero resi note queste lettere e fatto uscire queste lettere molto private. Trovate invece molti articoli ancora su quello che nel weekend è stato lanciato come scoop dal Fatto Quotidiano. Vale a dire, si sta parlando della trattativa celebre, se c'è stata, non c'è stata, Stato-mafia, all'epoca del 92, quando ci furono poi le stragi di Capaci e la strage con l'uccisione di Via D'Amelio di Paolo Borsellino, la domanda e le inchieste, procure indagano su un'eventuale trattativa tra Stato e mafia. Il Fatto Quotidiano ha lanciato questo weekend che cosa? Si è adombrata una possibile azione di moral dissuasion del Quirinale, che sarebbe addirittura intervenuto, secondo il Fatto Quotidiano, per fare appunto una intervento dissuasivo sulle procure che indagano. Tutto nasce da che cosa? Dal fatto che Nicola Mancino, ex ministro dell'interno, che è indagato in questa vicenda sulla trattativa Stato-mafia, ha telefonato dopo gli interrogatori a un consigliere, al consigliere giuridico del Quirinale, dicendo: mi sento solo, mi sento abbandonato. Insomma, queste telefonate che ci sono state confermate, secondo il Fatto Quotidiano, hanno portato anche a una richiesta a dire: a questo punto il Quirinale è intervenuto, il Quirinale ha agito dopo queste telefonate. Ebbene, vi segnalo due pagine oggi sul Corriere della Sera: le accuse di Di Pietro sul caso Mancino e il PD dice sono intollerabili. C'è anche un'intervista all'ex ministro dell'interno Scotti, che dice: non dico nulla, per carità, sulla presunta trattativa Stato-mafia, ma dico che fui cacciato all'epoca, certamente mi hanno fatto fuori. E fa una lunga analisi storica in questa intervista a Fabrizio Caccia. Parla invece uno dei PM che indagano su questo, vale a dire il procuratore Antonio Ingroia, intervistato da Salvo Palazzolo su Repubblica, dice: difende le intercettazioni necessarie nei confronti di Nicola Mancino, perché da lì è nato tutto, cioè si è scoperto che Nicola Mancino aveva telefonato appunto al consigliere giuridico del Quirinale per via di intercettazioni. E dice Ingroia: purtroppo ormai è una cattiva abitudine molto diffusa quella di cercare scorciatoie per affermare la propria innocenza. L'importante però è che non si verifichi alcuna interferenza e il corso delle indagini resti tale. E su questo, dice Ingroia, posso assicurare che la procura di Palermo si è sempre mossa senza condizionamenti o pressioni di sorta, basandosi solo sul convincimento che ci si è fatto sulle prove. Vabbè, insomma, torna questa annosa questione della trattativa Stato-mafia mai chiarita. È morto negli Stati Uniti Rodney King. Magari a qualcuno dirà poco, a qualcun altro dirà tanto. Rodney King fu il protagonista, vittima di un pestaggio brutale nel 1991 da parte della polizia a Los Angeles, e forse ve lo ricordate perché quel pestaggio, che fu ripreso da una telecamera nascosta, portò poi non tanto il pestaggio quanto la successiva soluzione dei poliziotti che pestarono Rodney King a una vera e propria guerra a Los Angeles nella primavera del 92. Vi segnalo l'articolo di Vittorio Zucconi oggi sulla Repubblica. Addio a Rodney King, il tassista che nel 91 infiammò Los Angeles. Nel 92, dopo l'assoluzione al processo contro i tre agenti ripresi mentre si accanivano su di lui, si innescò la polveriera sotto la crosta della pace razziale. Meno di un'ora dopo dalla notizia della sentenza esplosero le strade di East LA, di Los Angeles, intorno a una strada chiamata con crudele ironia della storia Normandy, la Normandia del D-Day. La collera dei residenti afro si scatenò non soltanto contro l'uomo bianco, ma anche contro i gialli, gli immigrati coreani che avevano negli anni rastrellato le proprietà, i negozi abbandonati. Scoppiarono battaglie, ci furono diversi morti. Ebbene, ora Rodney King è stato trovato morto nella sua piscina della villa hollywoodiana. Era stato infatti risarcito con 4 milioni di dollari. Ci fermiamo qui, il giornale radio. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 per parlare di attualità politica. Saluto l'onorevole Renato Brunetta del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, in Grecia si è votato e si tira un sospiro di sollievo per l'euro, pare per ora salvo, ma era davvero terribile pensare a una Grecia fuori dall'euro, secondo lei? Beh, era l'inizio della disgregazione dell'Eurozona, perché se era possibile per la Grecia, perché no per la Spagna o per l'Italia, che avevano una consistenza molto maggiore, quindi era la fine di un sistema, l'inizio della fine di un sistema, quindi bene le elezioni, anche se i problemi non sono risolti, perché i problemi economici della Grecia rimangono tutti sul tappeto, ma soprattutto i problemi economici dell'Unione Europea, per dire l'incapacità dell'Unione Europea di risolvere e gestire attacchi speculativi che dovrebbero essere considerati come fisiologici e normali per un'area come quella dell'euro. Pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo alla Federal Reserve, come si comporta la banca centrale americana nei confronti degli squilibri dell'economia americana. Quindi io lo dico tante volte, la Banca Centrale Europea dovrebbe dotarsi del bazooka, di bazooka, vale a dire del bazooka. Sistemi di reazione monetaria, vale a dire compratore di ultima istanza, in maniera tale da sopperire a squilibri parziali che dovessero realizzarsi di volta in volta. Piuttosto che in Spagna, in Italia, in Francia. Ma a proposito di questo, si è parlato anche del famigerato piano B. Secondo alcuni economisti, tutti gli stati dovrebbero avere un piano B per l'uscita dall'euro. L'Italia dovrebbe averlo, secondo lei? Ma vede, i piani B non dovrebbero essere dei singoli stati, perché se si comincia a pensare ai piani B, i piani B vogliono dire liberi tutti. Perché se l'Italia uscisse dall'euro, non esisterebbe l'euro. È molto semplice. Quindi, e non esisterebbe più l'Unione Europea, poi in fondo, perché l'Unione Europea si è costruita puntando poi nella sua ultima fase all'unione monetaria e poi, se verrà, all'unione politica. Quindi piano B vuol dire sciogliere il club, sì. E quindi non avrebbe alcun significato un piano B, cioè io esco, io socio esco, gli altri rimangono. No, non rimarrebbe più l'Eurozona, non rimarrebbe più l'euro, non rimarrebbe più l'Europa. Ma non vorrebbe dire essere anche previdenti, cioè prevedere una sciagura possibile, quindi io sono pronto nel momento in cui accade? Ma se succedesse, io non credo succederà, saranno piani B a 27, cioè per tutti i paesi dell'Unione Europea, non solo per l'Eurozona, che come ricordo a 14-20. Sì. Senta, il governo vuole arrivare al Consiglio europeo di fine mese con la riforma del lavoro approvata anche a colpi di fiducia. Non è vero. Questo si legge sui giornali. Come è possibile presentarsi? Le spiego subito. C'è stata una riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari con il governo la scorsa settimana. Bisogna dare le notizie seriamente, e penso che anche il Presidente Monti avrebbe tutto l'interesse a gestire seriamente i rapporti con il Parlamento. Il Governo si è presentato in Parlamento, si è verificata il calendario dell'esame da parte della Commissione competente e poi dell'Aula della riforma Fornero, si è fatta, come dire, visto la sequenza temporale che dovrebbe vedere in aula la riforma Fornero tra la prima e la seconda settimana di luglio. Il governo non ha obiettato a questo tipo di scaletta temporale e questo è quanto, salvo che il presidente Monti, durante un'intervista a Bologna con due giornalisti eminenti, Scalfari e il direttore di Repubblica e Mauro, ha detto che forse gli piacerebbe, eccetera, eccetera. Non mi pare che questo sia un atteggiamento molto, molto serio. Da quindi parte per lei vale quello che ha detto in Parlamento ai gruppi parlamentari? Non... Sì, c'era il ministro Giarda, e le istituzioni hanno regole e devono essere rispettate. Non è possibile che durante una conferenza tra capigruppo e governo si definisca un calendario e poi durante un'intervista a Bologna si butti all'aria tutto questo, eccetera, eccetera, anche perché il Parlamento è una cosa seria. E quindi se si tentasse questa accelerazione, voi che fate? Se si tentasse questa... Io non credo che questo sia un'ipotesi sul tappeto. Faccio un decreto legge al governo, se vuole. Faccio un decreto legge. Senta, invece... Perché non l'ha fatto a suo tempo? Beh, non lo chieda a me, sono stato... No, lo chiedo a Monti, siccome ci stanno ascoltando, sì. Ci stanno ascoltando anche altri, lo chiedo al Presidente Monti, se voleva avere risultati certi, ne ha fatti tanti di decreti legge, uno più uno meno, poteva fare un decreto legge, tra l'altro noi eravamo favorevoli a un decreto legge sul mercato del lavoro, ha preferito il disegno di legge, se ha preferito il disegno di legge, i disegni di legge hanno i loro tempi. E se il governo vuole essere rispettato, che il governo rispetti il Parlamento. A proposito di tempi, o meglio di numeri, questo balletto sugli esodati, lei come lo giudica? Ma giudico che la riforma Fornero è stata una riforma eccessiva, priva di periodi di transizione. Di solito lo stile italico era quello di avere lunghissimi periodi di transizione. Pensi solo che la riforma del 95 delle pensioni aveva un periodo di transizione di 40 anni, nel senso che entrava a regime 40 anni dopo di fatto. Ecco, periodi lunghi, lunghissimi di transizione non servono a nulla evidentemente, ma anche non prevedere nessun periodo di transizione, poi alla fine il boomerang ti ricade in testa, nel senso che se si cambiano le regole del gioco, a gioco ovviamente iniziato, tu hai che via via le varie generazioni che si presenteranno all'uscita alla pensione non saranno più tutelate, e il risultato è questo. Vede, i 390.000 esodati sono tutti quelli che negli anni prossimi dovranno subire il cambiamento delle regole, ma sarebbe la riforma. Se si assorbono tutti questi, tra virgolette, esodati, che poi sono circa 10-12 categorie, vuol dire cancellare la riforma. E quindi è troppo facile fare una riforma e poi subito dopo fare di anno in anno dei decreti di esenzione di questa o quella generazione, di questa o quella categoria. Un gran pasticcio. Sì, se la collega Fornero fosse stata un po' più realista, un po' meno fondamentalista e avesse previsto dei limitati periodi di transizione, molto probabilmente il problema non si sarebbe posto. Senta, oggi scade l'IMU, lei lo paga, sì? La paga l'IMU. Già pagato, purtroppo. Purtroppo, ammonta tanto. Beh, vuol dire che se uno paga tanto, vuol dire che ha anche tante proprietà, è una fortuna. Però... Sì, ho anche tanti mutui, come la stragrande maggioranza degli italiani. Però lei l'ha votata l'IMU in passato? Sì, l'ho votata, però la nostra posizione è solo per un anno, quest'anno, e l'anno prossimo diventerà l'IMU che volevamo noi, cioè solo per le seconde case, e destinata solamente agli enti locali, ai comuni. E, insomma, cioè, l'ha pagata tanto, ma ci vuole dire quanto? Ci può dire quanto? No, sì, la prima rata è 4.900 euro. Insomma, e purtroppo dice perché non la voleva, cioè l'ha votata, però dice una cosa sbagliata. Io considero la prima casa come un bene da non tassare dal punto di vista patrimoniale, perché questa IMU è una vera e propria patrimoniale. Ma le dico un'altra cosa, che il valore, anche qui l'eccesso della politica di Monti, il valore e la pressione di questa IMU ha un altro effetto oltre che quello di cassa, sta deprimendo il valore degli immobili, dello stock. Il valore degli immobili sta diminuendo tra il 20 e il 30%. Se lei aveva una casa che valeva 500.000 euro, quella stessa casa, in ragione dell'avvento dell'IMU, non vale più 500, ma ne vale 400, 380, 370, perché il valore immobiliare, essendo gravato di una patrimoniale, certo, si abbassa. L'economia purtroppo ha le sue regole, ha un valore di stock. Ma infatti è il momento in cui vendere le case è sconsigliato, diciamo. È il momento in cui, se uno ha un po' di soldi, è il momento di comprare. Senta, ma lei fa parte dell'ala dei cosiddetti falchi del Popolo della Libertà, quelli che attendono il Consiglio d'Europa per dire forse la scadenza del governo Monti? Se posso essere Consiglio Europeo. Sì. Il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, perché il Consiglio d'Europa. Sì, è un'altra cosa, il Consiglio Europeo, cioè. Il vecchio professore. Il professor Brunetta, che deve sempre correggere. Ogni tanto viene fuori. Allora, no, io dico solo che Monti è presidente del Consiglio per risolvere i problemi economici e per, tra virgolette, salvare l'Italia. E l'Italia si salva in Europa, e si salva con una diversa Europa, cioè con un'Europa che sia generosa, solidale, che non sia egoista come l'ha voluta la Merkel. Bene, o il presidente Monti, che ha una maggioranza straordinaria in Parlamento. Vede, nei prossimi giorni verranno approvate due mozioni in maniera congiunta e convergente, sì, incrociata, che daranno al presidente Monti un mandato del 75-80% del Parlamento per fare le cose alte europee, Unione politica, unione fiscale, unione bancaria, unione economica, gli eurobond, cioè nuovo mandato alla Banca Centrale Europea. Bene, queste sono le cose da fare e che salvano l'Europa, e con l'Europa salvano l'Italia, la Spagna, la Grecia e così via. Bene, o Monti, con questa forza di questo grande paese, fondatore dell'Unione Europea, 60 milioni di abitanti, il terzo paese in Europa, avrà la forza quasi anche di ribaltare il tavolo di fronte a Angela Merkel. Se Monti avrà questa forza, avrà non solo il nostro appoggio, ma avrà il nostro applauso. Se Monti sarà timido, sarà legato troppo ai voleri della Germania, Monti non avrà portato a termine il suo e quindi si sarà dimostrato inadeguato, e quindi bisogna trovare altre formule. Quindi andrà a casa, cioè per quel che riguarda lei dovrebbe andare a casa. Si chiama la politica bambola, direbbe Humphrey Bogart, cioè un presidente del Consiglio rimane presidente del Consiglio finché è in grado di svolgere il suo ruolo. Monti è un presidente del Consiglio sui generis, straordinario per fare cose straordinarie. Se Monti si riduce a fare cose banali o a non fare, non si vede perché dovremmo continuare ad avvalerci della sua preziosa opera. Allora, nel ringraziarla, visto che è uscita l'anima del professore, mi dia un voto a Monti, finora, un voto da 0 a 10, non in trentesimi, da 0 a 10. Tra il 5 e il 6. Tra il 5 e il 6. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, per essere stato lavoro con noi, Renato Brunetta del Popolo della Libertà. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi questa vicenda di cronaca che ha molto colpito. Un uomo al volante, ubriaco, ha ucciso 4 persone, ha sterminato una famiglia, non farà un giorno di carcere. Succede a Trapani, in Italia. Tra poco. 24 mattino. Può capitare in Italia che una persona con il tasso alcolemico sopra il consentito faccia un incidente stradale, uccida tre persone sul posto e poi in realtà le vittime sono da considerare quattro in questa storia, perché tre persone di una stessa famiglia sono state uccise. Il capo famiglia che era sulla macchina e che si è salvato si è suicidato due mesi dopo per la disperazione, quindi quattro vittime per una persona che aveva il tasso alcolemico superiore al consentito, come detto. Fabio Gulotta, 22 anni, non farà un giorno solo di carcere. Dopo aver ucciso di fatto quattro persone, possiamo dire, ha patteggiato due anni, pena sospesa, è successo al tribunale di Marsala. Una vicenda davvero incredibile. Ne vogliamo parlare con l'avvocato di parte civile, la famiglia che è stata maggiormente colpita, l'avvocato Claudio Congedo, che saluto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a voi. Saluto anche la presidentessa dell'Associazione Italiana Familiare Vittime della Strada, è già stata nostra ospite, Giuseppa Cassaniti Mastroieni. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno. Senta, avvocato Congedo, messa così sembra davvero incredibile. Cioè, è possibile uccidere tre persone? Certo, in un incidente stradale, non voglio dire, qua è il grande tema se è l'omicidio volontario piuttosto che doloso, piuttosto che colposo, però uccidere tre persone, o possiamo considerare quattro visto che una poi si è suicidata due mesi dopo per la disperazione, e non fare un giorno di carcere? Purtroppo sì, oggi non possiamo dire che questo. Purtroppo la legge italiana consente dare varie possibilità agli imputati, nel caso specifico la vicenda grave, molto grave, nel senso che la parola già emerge, la gravità del fatto, ha consentito di emettere questa sentenza. Non possiamo dire, cioè non possiamo pensare che sia incredibile, è vero, è successo. Quella sentenza ormai è valida e basta, non possiamo aggiungere altro. Ecco, ma i motivi quali possono essere? Voglio dire, ha patteggiato una pena di due anni, come si è arrivati a... Il problema non è qua il patteggiamento, perché comunque per l'ordinamento italiano un reato del genere è possibile, cioè si dà la possibilità all'imputato di patteggiare trovando l'accordo con l'OPM. Il problema è che la pena è troppo è in disvalore totale con il fatto, e siccome nel caso specifico il giudice ha il dovere di valutare la congruità della pena, nel caso specifico il giudice ha valutato questo. No, ma facciamo così. Tra l'altro il suo collegamento telefonico è un po' difficoltoso, vediamo se riusciamo a migliorarlo. Intanto vorrei chiedere alla presidentessa Cassaniti Mastroieni, lei ha seguito, immagino, questa vicenda come purtroppo tante vicende che si susseguono sui giornali, raccontate quando si parla di incidenti stradali, soprattutto di persone che poi hanno un tasso alcolico, magari hanno anche, sono sotto l'effetto di stupefacenti, succedono queste cose qui. Com'è possibile, come lei si spiega il fatto che una persona che ha sterminato una famiglia non faccia un giorno di carcere? Me lo spiego per il fatto che i giudici hanno una cultura deteriore, cioè una cultura che è capace di discriminare tra la vittima e l'imputato e andare a favore dell'imputato. Anche se c'è la legge che favorisce l'imputato e ci sono due riti premiali per l'imputato, il giudice che ha consapevolezza della complessità delle vicende, dei fatti umani e così via, tra i due riti premiali, patteggiamento e processo per rito abbreviato, in un caso del genere non avrebbe mai dovuto scegliere il patteggiamento, avrebbe dovuto permettere il processo per rito abbreviato in maniera tale che i familiari delle vittime avessero la possibilità di interloquire e magari accettare attraverso il dibattito eccetera poi la decisione del giudice. Ma in questo caso le persone che debbono sopportare la dolorosissima e irreversibile situazione della perdita non di una vita, addirittura di tre vite e poi anche di quattro, debbono accettare come si dice, senza parlare, senza avere parola, che insomma chi ha ucciso non venga processato, non paga una lira eccetera. Cioè il giudice avrebbe avuto la possibilità di fare il processo di rifiutare, certo, di rifiutare la diminuzione di un terzo della pena lo stesso. ma permette ai familiari di interloquire. Però questo, il problema è sempre questo: in Italia si vuole inserire, almeno da parte di alcuni, anche della vostra associazione, l'idea dell'omicidio doloso, cioè di chi si mette alla guida in una situazione in cui è magari un po' brillo, diciamo, ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, e rendere questo come un omicidio doloso, cioè nel momento in cui ti metti alla guida sai che puoi provocare un omicidio. Questo passerà mai secondo lei? Questo cambierebbe proprio di questa idea. Però cambierebbe molto questo. No, le voglio dire questo. Le ho detto che si tratta della sottocultura dei giudici, perché se i giudici fossero coscienziosi, fossero persone che orientate a dare il vero significato alle cose, potrebbero applicare la normativa esistente in maniera adeguata. Le ho detto, ci sono due siti premiali, avrebbero dovuto applicare il processo per rito abbreviato, invece applica il patteggiamento. Può partire dal massimo della pena, invece magari parte dal minimo della pena. Cioè, fa quello che vuole il giudice. Il giudice trasforma la discrezionalità che gli ha dato la norma, la legge, la trasforma in arbitrio, e questo è gravissimo. Cioè, noi non ci riconosciamo in queste decisioni, non soltanto perché bisogna cambiare la norma, ma perché i giudici non hanno quella cultura che li porta a valutare in maniera adeguata i fatti umani. Perché anche quando se dovesse anche essere modificato il reato in omicidio doloso, in omicidio stradale, come si vuole, doloso, tutto quello che si vuole, se ci sarà un massimo e un minimo di pena, lui sarà affettato. La discrezionalità noi, quella rimane. Le voglio dire questo: noi non pensiamo che sia più grave il fatto che sia ubriaco o drogato. Noi diciamo che va punita sempre la guida azzardata, aggressiva e pericolosa, cioè quel modo di guidare in cui c'è un'assunzione irragionevole del rischio. Prescindiamo dal fatto se aveva bevuto o non aveva bevuto, perché anzi riteniamo che la persona che lucidamente fa questo è ancora peggio di ancora chi peggio. Certo, chi magari c'è il limite di 50 e va a 100 all'ora, anche se è lucido, dice è anche peggio. Le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Allora, 8:49 minuti, stiamo parlando di questa vicenda che ha coinvolto Fabio Gulotta, 22 anni, una persona che ha investito, ha ucciso sul posto tre persone di un'intera famiglia, e poi una quarta persona che era in quella macchina, il capofamiglia, si è tolto la vita per la disperazione due mesi dopo. Comunque Fabio Gulotta non farà un giorno di carcere, ha patteggiato e ha ottenuto questo patteggiamento. Avvocato Congedo, la questione, ci dice la presidentessa e ce l'ha detto anche lei, che dipende davvero tutto, e il cuore del problema è la discrezionalità del giudice, che per carità non è qui, i giudici dicono noi non parliamo motivi, noi parliamo con le sentenze, cioè dobbiamo tutto dire è colpa di questa discrezionalità del giudice, che non avrebbe dovuto accettare questo patteggiamento, punto. Di fatto il giudice gode di questo potere di valutazione, seppur discrezionale, ma comunque deve valutare, e nel caso specifico la sua valutazione è stata questa. Io tra l'altro dico, proprio con riferimento all'ultima sua frase, i giudici non parlano perché parlano con le sentenze. Io non so se voi l'avete sentito l'intervento del Presidente del Tribunale. L'abbiamo anche chiamato al Presidente del Tribunale e gentilmente ha fatto sapere, il Dottor Natoli ci ha fatto sapere che non intendeva intervenire. Ha detto, però ci dica lei che cosa ha detto, credo si è riferito alla velocità del veicolo. Sì, ha fatto delle precisazioni. Io dico, sull'intervento del Presidente del Tribunale, che fra l'altro stimo perché giudice abbastanza valido, viene da Palermo, però dico, sulle valutazioni fatte successivamente all'emissione della sentenza, io non credo che sia stato un qualcosa di positivo. Cioè, ci dica che cosa ha detto, ci dica che cosa ha detto il Presidente. Si è limitato a precisare che il tasso alcolemico non era grave perché era 0,72, ma intanto la norma prevede che il minimo è 0,50. Cioè ha detto era poco era sopra il consentito. Ha fatto delle precisazioni in merito, diciamo, agli elementi che aveva davanti a sé il giudice nel prendere questa decisione. Io, come ha detto lei, lo condivido. Le sentenze vanno accettate, vanno criticate, però i giudici devono parlare con le sentenze. Cioè, questo intervento successivo io non è piaciuto. Francamente non l'ho capito. Senta, ma è vero che la famiglia intende rivolgersi addirittura al Presidente della Repubblica Napolitano? Noi stiamo valutando tutta una serie di situazioni e di iniziative per cercare comunque di non far dimenticare questa vicenda. Se ormai, diciamo, a livello processuale la vicenda è chiusa, però a livello morale la famiglia intende far capire o quantomeno far sapere agli altri quello che è successo. E noi come avvocati, io dico, è giusto, dico, i media devono parlare di ciò che avviene nelle aule di tribunale. Io sono, diciamo, uno di quelli che ritiene che i processi vanno nelle aule, però adesso non c'è più nulla da fare, cioè, quindi da parte nostra, da parte mia e degli altri due miei colleghi, l'avvocato Re e l'avvocato Greco, non possiamo fare altro che accettare la volontà della famiglia. D'altronde, dico, a queste persone cosa è rimasto? Nulla. Ad oggi non è rimasto assolutamente nulla. Abbiamo letto anche questa notizia, che credo però lei abbia parzialmente corretto con la nostra redazione, cioè che mi aveva ancora più inquietato, cioè che a questa persona, Fabio Gulotta, non è stata ritirata la patente. In realtà questo credo corrisponda per il momento al vero, ma verrà rettificata questa... Il codice prevede una procedura per... Io fra l'altro stamattina sto andando al Tribunale di Marsala per un altro processo, però nello specifico parlerò col pubblico ministero per cercare di inserire anche la pena accessoria, che nel caso specifico, anche se la sentenza di patteggiamento non verrebbe sospesa, della sospensione della patente. Cioè il codice prevede che oltre all'applicazione principale c'è anche la pena accessoria alla sospensione della patente, e questa dovrà essere inserita in questa sentenza, quantomeno. Ma dovrà essere inserita, vuol dire che al momento non è inserita, cioè Fabio Gulotta può andare in giro, oggi può prendere la macchina e andare. Sì, attualmente la sentenza prevede semplicemente la pena accessoria e la sospensione della patente. Cioè in questo momento, questa mattina, mentre stiamo parlando, la persona che ha provocato questa incidenza può girare tranquillamente in macchina con la patente. Perfettamente. Probabilmente lo faceva anche prima della sentenza, questo dicono, io sì, certo, se non era sospesa anche prima. Perché noi non abbiamo avuto contezza assolutamente, e negli atti processuali non c'era assolutamente nessun provvedimento che ci faceva sapere o comunque che accertava che il Gulotta aveva avuto la sospensione della patente subito dopo il sinistro. No, questa cosa aggiunge dell'incredibile alla vicenda già dell'incredibile. Io vi ringrazio, mi fermo qui. Questa cosa della patente davvero era... come dire, qualcosa che mancava e che rovina ancora di più il tutto. Però vi ringrazio l'avvocato Claudio Congedo e la presidentessa Giuseppa Cassaniti Mastroieni dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e vi rinnovo l'appuntamento a domattina alle 7:20. Verde Dentro, nuova elettricità per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 24 Mattino.